abbiamo Azam, siamo qua per la presentazione del libro Foglie di gelso con lo scrittore Aysar. Allora, faccio una piccola introduzione per spiegare perché stiamo presentando questo libro. Allora, da qualche anno un progetto di Zam che si chiama West Climbing Bank ha di fatto creato un rapporto di collaborazione e amicizia con un'associazione di un campo profughi in Palestina, per l'esattezza quello di Deisha, vicino a Betlemme, il secondo più grande in Palestina. Questa associazione si occupa di promozione culturale, sociale, politica, e con loro abbiamo creato questo progetto di arrampicata sportiva politica. Da 3 anni andiamo lì a Deisha e oltre ad aver formato alcune persone e creato una piccola palestra di arrampicata proprio dove si trova l'associazione Leilac, con loro abbiamo creato delle vie di arrampicata in esterna, in un luogo che si chiama Batir, molto vicino a Betlemme, e un luogo che è spesso sotto assedio perché spesso l'esercito israeliano fa delle incursioni, prova a creare delle nuove colonie con la scusa di nuovi avamposti militari, e di fatto volevamo insieme a Leilac creare un presidio politico che parlasse però di sport, un presidio un po' diverso. Quindi utilizzare quel luogo attraverso l'arrampicata sportiva era dare un messaggio anche diverso, un luogo che viene attraversato moltissimo dai palestinesi e anche patrimonio dell'UNESCO, tra l'altro la zona di Batir, e creare appunto questi presidi sportivi faceva sì che si parlasse ancora di più di questi luoghi e dell'assedio che l'occupante prova quotidianamente nei confronti appunto del popolo palestinese. Abbiamo deciso quindi di continuare a parlare di Palestina attraverso anche eventi culturali come questi, presentando un libro di uno scrittore, un ragazzo che è nato, cresciuto nel campo profughi di Deisha e oggi appunto viene qua a raccontarci un pochettino questo libro. Si intitola Foglie di gelso e sono tanti piccoli racconti, piccoli magari per lunghezza ma non per contenuto. Parlano proprio degli abitanti del campo profughi di Deisha e Aysar si è reso narratore e messaggero di loro storie e spaziano tantissimo sia dalla vita quotidiana ma anche e soprattutto tra cosa significa vivere sotto occupazione, cosa significa vivere nelle carceri israeliane. E adesso faccio una piccola... Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Aysar la prima volta che sono stata a Deisha e ho ritrovato nel libro l'intensità di una persona che appunto parla tanto anche con gli occhi, e in questo testo lui riesce a descrivere molto bene, quando lo si legge è come se riuscissi a vedere un pochettino Deisha, il campo profughi, ma non soltanto questo. Ha una tecnica narrativa molto, molto efficace, molto potente, e riesce a passare poi anche a momenti di scrittura poetica quasi, perché riproduce emozioni e sentimenti dei protagonisti che arrivano proprio dritto al cuore del lettore. È molto difficile non immedesimarsi, usa molto spesso le metafore, cosa che chiederò anche a lui, e quindi è un libro, sono tante piccole storie ma che danno veramente idea di cosa significa vivere in Palestina, crescere in Palestina. E basta, credo. E benvenuto Aysar, grazie di essere qua. Allora, io volevo chiederti un pochettino se anche l'avrei fatto io, ma non è la stessa cosa, se ci parli un po' di Deisha, e poi magari dopo ti faccio qualche domanda anche per introdurre, però almeno ci racconti che cosa vuol dire vivere in un campo profughi, nascere e crescere lì. Prima di tutti, grazie mille per voi, sono felice di essere qui. Possibile. E preferisco parlare in inglese, così posso spiegare bene. Sì, sì, sì. Tu vuoi fare il traduzione? Traduco. Ok. As a youth in my area, I have born and grew up in this small refugee camp in Bethlehem, which consists of 15,000 person live in less than 1 kilometer. So it's too much crowded in a small area. Allora, lui è nato e cresciuto in questo campo profughi che è grosso 1 chilometro quadrato e ci vivono quasi 16.000 persone e ovviamente si capisce che è molto affollato, non è facile vivere tutti insieme in una zona così piccola. I will not talk about the history of the camp because you will find it in Google and internet, but I will talk about what it's impossible that you will find it in internet, which is the real situation that we face with the Israeli soldier. E lui parlerà un pochettino di che cosa vuol dire vivere in un campo profughi. Non è facile, come sembra, trovare delle informazioni in internet perché appunto vivono sotto occupazione e lui invece vuole dare un'idea di che cosa significa l'occupazione israeliana. Because from because from 15,000 there is 80% of this population, at least each one get arrested one time in their life in Israeli prisons. Di queste 15.000 persone almeno l'80% è stato arrestato almeno una volta nella sua vita. For many reasons that we could hear in the Israeli prison, which easy for Israeli to fake it in order to put people in a prison, especially the young generation between 18 till 25. E per l'esercito israeliano è molto facile arrestare queste giovani persone palestinesi o non addurre proprio nessun tipo di prova o comunque produrne di false, e la maggior parte di queste persone hanno un'età compresa fra i 18 e i 25 anni. As a part of a process of damaging the youth and damaging their mentality and creating people are able to manage it, are able to control them. E l'intento è quello di colpire queste fascia d'età perché vogliono controllarla, vogliono avere le capacità di poterla controllare e quindi muovere come loro preferiscono e vogliono. There is experience I really like every time to repeat the story. Experience that happened in German, in one of the university in German. This experience, the teacher, he gathered 20 students and he formed a prison inside this university to see the effect of the prison on the student or on the people. Lui per spiegare un po' questo tipo di situazione porta spesso un'esperienza che è stata fatta in Germania in un'università dove un professore ha riprodotto un carcere, una cella, per far vivere ai suoi studenti questo tipo di esperienza. He chose some of them to be the guard and some of them to be the prisoner. At the end of this experience, the professor said the result of this research was that there is a part of the prisoner were able to be controlled totally, but other part they totally collapsed psychology. The other part, which, as he said before, were totally controlled, and he called this third part the new modern prisoner. So people who make a revolution in the prison, people who collapse, and people who were controlled totally. Praticamente gli studenti erano divisi tra prigionieri e guardie, e alla fine di questa esperienza ha potuto vedere che le persone che rivestivano i panni dei prigionieri erano divise, tra virgolette, in tre gruppi, delle persone che erano completamente state sopraffatte dal senso di prigionia, quindi avevano avuto un crollo psicologico, altre che erano state completamente controllate e altre invece che avevano tentato di reagire in qualche modo. And this is really what they tried to do in especially in the Palestinian not just the Palestinian cities but also in the Palestinian prisoners, not just to control the Palestinian people but also reorganize the Palestinian people, which make this system really dangerous system. E questo serve a far capire come lo Stato israeliano e l'esercito israeliano operano non soltanto per controllare, imprigionare le persone palestinesi, ma anche per poter riorganizzare la loro società, i rapporti sociali e quindi avere anche un altro tipo di controllo su di loro. For example, us as a Palestinian, when we pass the Israeli checkpoint, normally we have to stop the car, turn off the light, and then pass slowly from the checkpoint, and then we can continue. Nowadays, if there is Israeli in the checkpoint, or there is no Israeli in checkpoint, Palestinians are doing the same thing, turning it off without logic, because it became part of what they are doing in daily life. This is maybe a simple example how Israeli, they trained the mentality. Per far comprendere come entra anche nella mentalità delle persone questo tipo di controllo, fa l'esempio del loro come palestinesi per passare da una città all'altra devono attraversare dei checkpoint e lo devono fare rallentando la macchina, abbassando, togliendo le luci e poi riprendere il percorso se gli viene detto di passare. Succede anche che sia che ci siano i soldati israeliani dentro al checkpoint oppure no, le persone, i palestinesi, hanno comunque questa modalità di attraversarli perché ormai fa così parte della loro mentalità, del loro quotidiano, che anche se l'occupante non è presente in quel preciso momento, loro hanno assunto quel tipo di atteggiamento. The situation is became normal for us as a Palestinian, which should not be normal. As the same as the people who get killed every day, 2 days, someone died. It became something normal. We don't feel the surprise someone died, which should not be like that. This is the maybe the situation that we arrive. Maybe in this for that I decide to write these stories that I know that it's not normal and should not be normal. Lui ha deciso di scrivere queste storie, di riportare queste storie di quotidianità proprio perché si sta arrivando a un punto in cui le persone muoiono e sembra assolutamente la normalità e ovviamente non dovrebbe essere così ed è per questo che lui ha scritto queste storie. Maybe I try to focus more on the stories of human stories, funny stories that happen in the prisons, more than political, because at the end they are human. E si è focalizzato molto di più sull'aspetto umano, magari anche molto legato alle prigioni, ma di momenti quotidiani, a volte anche simpatici, più che sull'aspetto politico, perché arriva anche di più alle persone. Io volevo chiederti, proprio partiamo dal titolo, perché non è per forza scontato, perché hai deciso di intitolare questo libro, questa raccolta, Foglie di gelso, che cosa rappresenta e cosa nasconde? Maybe it came from memories that I remember when I was a child. It was the only trees that exist in refugee camp because it's easy to grow it and make shadow normally for the houses. So it was almost all or each house in the camp have one this type of tree. maybe from just the memories that came for me, this idea. Plus, there is the small messages between prisoners and their families that they used to escape it and find a way how to write it and for their families. It was like a strange way, but for me, it was also part from this folio. E sicuramente per da un certo punto di vista gli deriva dalla memoria di stralci di memoria di quando era piccolo, perché il campo profughi di Deisha è ricco di questi alberi e crescono molto naturalmente e facilmente all'interno del campo, e quasi ogni famiglia ha un suo albero di gelso. E l'altro aspetto riguarda invece il legame che c'è tra i prigionieri e le famiglie all'esterno, un modo che si ha per comunicare. Sì, normally, communication between prisoners and their families is impossible. There is no way. So Palestinians, they find a way, a bit strange way, but it was the only way how to communicate. They used to write in really small paper the whole messages, and they used to roll it as a cigarette, put it in a small plastic bag, and fire the plastic bag to not make the air enter inside. And then anyone who have to leave the prison, he eat it. Then he go to the banyo, la la la la, and then he send the message to the family. It was the only way how to communicate also between politician and their political parties outside. Maybe till today, they still use it. Uno dei pochi modi che i palestinesi hanno trovato per comunicare tra l'interno delle carceri, uno dei primi modi, e l'esterno, era appunto scrivere interi messaggi su dei piccolissimi pezzi di carta, arrotolarli proprio come si rollano le sigarette, poi metterci intorno la plastica e a quel punto ingerirli. Aspettare che poi venisse espulso e a quel punto viaggiare tra l'interno e l'esterno delle carceri, non soltanto tra famiglie, ma anche per quanto riguarda invece le questioni più politiche. For me it was just metaphor, maybe also from that. È una delle metafore che Aysar usa all'interno di questo libro. E ti volevo chiedere un pochettino, appunto, sono storie che riguardano per lo più il campo profughi di Deisha, poi potrebbero raccontare, non nello specifico, ma a grandi linee, essere le storie di tantissimi altri palestinesi in giro per la Palestina. E tu tocchi alcune tematiche come la libertà, la rabbia o anche la patria. Una particolarità, ad esempio, che nel testo citi sempre usi sempre il nome patria, mai Palestina propriamente, e usi appunto queste metafore per immagini, vuoi far arrivare un messaggio che sia di libertà, di rabbia, in alcuni contesti anche un po' più divertente, mi viene in mente il racconto della piscina. Un po' se ci vuoi raccontare questo tuo metodo descrittivo e che tipo di messaggi vuoi far arrivare. Ok, let's start from the definition of the land and maybe and the homeland, because for me land is like any geographic area. It could be also in Italy, it could be in America. Or what make the land more valuable is our relationship with it. And since 1948, maybe with the war, it's helped Palestinians to reform also the meaning of the identity, the Palestinian identity, and their relationship with the land. So with this sacrification that has happened and all these wars that's happened, the land it's have different meaning for us. That's why we call it, we don't like to call it land as much as we call it homeland. Lui usa il termine patria proprio perché ha un significato, qualsiasi posto in realtà potrebbe essere patria per loro palestinesi, soprattutto dopo il 1948, la guerra e l'occupazione, ha un significato ben preciso di gli aiuta a riavvicinarsi a questa terra che gli è stata sottratta. E not just like that, but also because if we will look at the refugee camp, the Palestinians who live in the refugee camp, if you ask anyone from them what is your right for return, he will say to go back to the village. If you will ask the Palestinians who live in Italy to back to Palestine, if you ask the prisoner, they will tell you to go out of the prison. So also it was more than just piece of geographic area that we are fighting since long time for it. So it was important to find like more wide definition that can gather all of that. Maybe that's why we call it homeland. E inoltre perché appunto gli danno un significato di ritorno a casa che non è soltanto il proprio luogo geografico. Se si chiede ad un palestinese di un campo profughi qual è il suo desiderio, è tornare nel suo villaggio da dove è stato dislocato. Se lo si chiede anche agli stessi palestinesi che vivono fuori dalla Palestina, è tornare in appunto in patria. Ed è per questo che lui nel libro, ma non soltanto lui, quindi i palestinesi danno questo significato molto più ampio al termine patria. Same as maybe the other definition that you mentioned, such as also the freedom, that maybe nowadays I'm living in Italy here and I'm moving freely. It's supposed to be the freedom that maybe I was looking for it or I was fighting for it, but now I'm not sure about it, if this is the same freedom that I was looking for. And as I wrote in the text, how we can speak about the freedom while we never lose it. I mean, we gain and we get the real meaning of this word when we lose it. As us in Palestinian, we don't have the freedom there. We never live it. We don't know how it's look like, but we are more professional in defining it because we never live it. Maybe that's why when I write, I used to write from my feeling inside, how I used to live there. E parla di altri concetti come soprattutto quello della libertà. Lui adesso vive qua in Italia, quindi è libero di girare e andare dove vuole. Però non è sicuro che sia proprio la stessa cosa di quando si sta lì e di quello che si vive lì, proprio perché loro sono privati della libertà, di qualsiasi tipo di libertà. Ha scritto proprio sulla base di sentimenti e di emozioni che lo portavano a ricercare un tipo di libertà che forse quando non, della quale non si è privati non si può così tanto comprendere. The same as the identity itself, the Palestinian identity that does not exist neither in Palestine either outside Palestine. Even nowadays when I will go to the clinic or I will go to agency di lavoro or Palestinian, Israel, no, Palestine, ma non c'è, there is no Palestinian in the system. Trovi, non è il mio problema. At the end I tell him, okay, search maybe for territory palestinesi or territory occupato o così. Ah sì, ho trovato. È legato anche molto al concetto di identità, perché adesso essere palestinesi fuori dalla Palestina, ad esempio, comporta il fatto che Palestina non compare da nessuna parte. Se si va in qualsiasi tipo di agenzia a livello burocratico, come palestinesi manca quel tipo di identità. Sì, poi magari si arriva a trovare territori palestinesi, ma non è la stessa cosa. You can imagine how you can live all your life without identity. As not the identity, as also nationality, that for us as a Palestinian when we travel, we use travel document, we don't use passport, because we don't have Palestinian nationality. So we are exist but not exist, because the whole system are saying that you are not exist. So what rest from the way that Palestinians use to try to gain their freedom and gain their identification more than resisting. Dice, prova a immaginare a vivere una vita senza quel tipo di identità. È difficile anche trovare un'identità quando viene negata la nazionalità, perché la Palestina a livello nazionale non esiste. E quindi per loro diventa importante resistere con tutti i mezzi possibili per affermare quel tipo di identità legato anche a una nazionalità, ma in quel tipo di identità. Non so se te la senti, magari di leggere un pezzetto, sì, e raccontarci anche magari un po' più. Ovviamente per me che l'ho letto, ma che ho avuto la fortuna di conoscere anche un po' il campo profughi e alcune persone di cui tu parli, cioè qualche retroscena, qualche cosa la so, però se c'è qualche pezzo che invece tu leggi cosa hai trovato, un sacco. Sì, più o meno sì, sono tante pagine segnate. No, poi ammetto che quando leggi un libro e conosci i protagonisti è un po' complicato, subentrano tutta una serie di... Però ce n'è uno molto forte, io non conosco i protagonisti, ma credo che renda anche molto l'idea della privazione della libertà. È il primo, messaggi nella posta. E se ci vuoi anche un po' raccontare... Ah, forse... lungo, no. Se poi ti va magari di leggo io. Se tu bisogno o meno, io bisogno di allora ne leggo. No, allora ne leggo un pezzettino o lo leggo tutto, cosa dici? Bello, lo leggo tutto, dai, va bene. Ok. Messaggi nella posta. Nuran aveva provato a capire il motivo del suo arresto, ma non c'era riuscita. Forse era già stato tutto scritto. Anche lei, come i suoi fratelli e la sua famiglia, doveva intraprendere quella strada. Anche lei era chiamata a pagare una tassa per conto della patria. Non aveva neanche avuto il tempo di assaporare i momenti di spensieratezza dell'infanzia, che era dovuta entrare subito in un'altra vita e ripetere paroloni che non capiva e che forse non vuole capire tuttora, perché troppo ingombranti e spesso difficili da pronunciare. L'esperienza della prigionia si era imposta sulla vita non ancora iniziata di Nuran. Sul suo nome venne impresso il marchio di detenuta, prima ancora di poterne comprendere pienamente il significato. Quel poco che sapeva glielo aveva insegnato suo padre, prima di venire ucciso, nel marzo del 2008. Tutto quello che oggi Nuran ricorda è che ogni volta che vedeva sua madre da dietro le sbarre, desiderava correrle incontro, abbracciarla, piangere sul suo petto e lamentarsi della notte fredda e delle urla del guardiano notturno, il Nashun. In tribunale Nuran era sopraffatta dalla nostalgia. Evitava tuttavia di incrociare gli occhi colmi di lacrime della madre, che avrebbero mandato in mille pezzi quella fragile facciata di risolutezza innalzata per nascondere la debolezza davanti al giudice e ai soldati. Davanti alle forze di occupazione è indispensabile resistere, anche ai più nobili sentimenti umani, per evitare di essere sottomessi. Passarono ore, giorni e mesi, durante i quali le notti di Nuran erano prive di conforto e riposo. Prima d'allora non aveva conosciuto il significato del tempo, non ne aveva mai percepito il peso. Spesso si ritrovò a domandare a se stessa e alle pareti della cella: cosa sarebbe successo se papà fosse ancora in vita? Mi chiederebbe se ho voglia di camminare insieme e continuare il racconto della patria. Ma che patria è questa che non va mai a trovarla in prigione? Che patria è questa che ha portato via suo padre e ha lasciato sua madre a cenare da sola la sera? Che patria è questa che il giorno di festa non le ha regalato nemmeno una coperta calda che le restituisse speranza nel futuro? Nuran si mise a riflettere. Immagina se potessi uscire da questo posto, passeggiare per le vie della città vecchia e comprare tutti i dolci che voglio. Invece, resterò qui un anno o due, come ha detto il giudice, sulla base delle accuse che mi hanno rivolto. Accuse che nessuno, all'infuori dei carcerieri, ha detto, visto o scritto. Per tutta la durata del processo e prima che venisse emessa la sentenza contro di lei, Nuran fu continuamente trasportata avanti e indietro dalla prigione al tribunale. Quelli furono probabilmente i momenti peggiori della sua vita da detenuta. Spesso, nel descrivere il suo odio per i furgoncini metallici dedicati al trasporto dei prigionieri tra le carceri e i tribunali, chiamati posta, diceva alle compagne di prigionia: «Meglio essere condannata a 100 anni che farsi un giorno nella posta». La posta è una scatola gelida, come un frigorifero. Sedili di metallo, un gran freddo e due soldati armati davanti che osservano continuamente i detenuti. Durante uno dei trasferimenti pensò di morire. Fuori era freddo e pioveva, eppure l'aria condizionata del furgone era impostata al massimo. Nuran iniziò a piangere e a strillare, finché non arrivò il Nashnun, che la colpì sul fianco col fucile. I soldati, intanto, presero a insultarla e gridarle di stare zitta. Tutto questo era successo perché aveva avuto freddo. Cosa sarebbe successo se avesse provato rabbia? Era tutto sbagliato. Non avrebbe dovuto essere lì. Avrebbe dovuto essere seduta al suo banco di scuola o a giocare con l'amica in strada davanti a casa. Oppure con la madre a vedere la televisione la sera, aspettando il sorriso di suo fratello di ritorno dal lavoro. Forse, a causa della nostalgia, Nuran decise di scrivere frasi ovunque. Prese a scrivere sui sedili della posta dei messaggi per i suoi fratelli, anch'essi carcerati, per la madre, per le amiche e per gli altri detenuti che ogni giorno erano trasportati in quelle celle frigorifere. E chi lo sa, forse per puro caso, al suo posto si sarebbero seduti i suoi fratelli, Mahmoud e Ahmed, durante i loro trasferimenti sul corpo della patria, attraverso le sue prigioni. E allora avrebbero letto i messaggi che Nuran aveva lasciato loro. Passarono 4 mesi. Passarono il mese di Ramadan e l'Aid, e Nuran era ancora dietro le sbarre. Era seduta a tavola per la cena che interrompe il digiuno, tra due detenute, entrambe convinte che la speranza fosse vicina, nonostante dentro di loro il dolore e la tristezza pesassero come macigni. C'era un silenzio che racchiudeva tante delusioni, parole e sogni. Sogni defunti dietro le sbarre, insieme a un'infanzia finita, senza nessuno con cui trascorrerla. Gran parte di questi sogni non erano che piccoli desideri, i richiami alla preghiera della festa, i vestiti nuovi e una cena la sera. Dopo 4 mesi e qualche giorno, Nuran uscì di prigione e quando suo fratello Mahmoud l'abbracciò, le sussurrò all'orecchio: «Sono contento di vederti, sorellina, e grazie per i tuoi messaggi». «Quali messaggi?» chiese stupita. Lui la guardò con le lacrime che gli rigavano il viso. «I messaggi nella posta, Nuran, i messaggi nella posta». Grazie. Grazie a te. E no, qui trovo che sia un racconto molto forte perché descrive molto bene cosa le persone sono costrette a sostenere, già detenute, ma con questi continui passaggi in queste furgoncini chiamati posta, che vengono descritti proprio come delle celle frigorifere, quindi c'è uno stress anche psicologico, fisico continuo. Yeah. In general, all prisoners, this is one of the worst experiences that they had when they'd be transferred from the prison to the court or prison to another prison. This experience of this metal bus that they have to transfer, because when you will pass some years in the prison, already your body will be slowly damaged. So also this experience that you will be hanged in all metal and you will be, so it will not be easy. So imagine for a child like Nuran. Dice che questa è un'esperienza che tutti i detenuti attraversano quando vengono trasportati da un carcere al tribunale o da un carcere all'altro, e bisogna immaginare il fatto che già il loro corpo è costretto ad un lento deterioramento durante la loro prigionia nelle carceri. Questo tipo di esperienza in questo furgoncino è una delle peggiori che possano attraversare, perché sono costretti a stare seduti in questo spazio completamente di metallo, e sia dal punto di vista fisico ma anche psicologico è molto duro. Però qui c'è anche un messaggio in più, perché i palestinesi, che sono molto bravi in questo, trovano anche qui il modo di riuscire a comunicare l'uno con l'altro. Yeah, it was really interesting, this one, which is really story, this girl that I wrote about. In fact, there is another story in the book I wrote about her two brother, which they decide at the end to make hunger strike that for 85 days to be able to be released from the prison. And it was one of the strong hunger strike that prisoners did. Sì, dice che appunto è stata è una storia ovviamente vera, che riguarda una ragazza molto, molto giovane, ed è stato interessante scoprire questa storia anche perché è legata ad altri due fratelli di cui si parla in questo racconto, ma che poi sono i protagonisti di un altro racconto all'interno del libro, perché sono due tra i promotori di un sciopero della fame, uno dei più forti scioperi della fame che ci sono stati, e quindi c'è anche questa correlazione. Ci vuoi un po' anche raccontare, non so, la storia di Ahmed Mahmoud, o anche in generale dello sciopero della fame? No, I will mention the story of her brothers. In general, the Israeli, they give them administrative detention 6 months, and then they make it another 6 months, and then they were close to make another one, so they decide to make the hunger strike. Per quanto riguarda appunto questo episodio, lui vuole specificare che spesso lo Stato israeliano arresta le persone tramite la detenzione amministrativa, che di solito dura 6 mesi e poi può essere prolungata di altri 6 mesi, e spesso arriva ad accumulare anni. Ed è qualcosa di estremamente brutale, proprio perché di solito non vengono addotte prove o processi per imprigionare le persone con questo tipo di modalità. In the prison there is a procedure that you have to follow when you will make hunger strike. You have to announce to the administrative, to the Israeli, then you have to give your food back for 3 times. Then you will start your hunger strike, and then Israeli, they will separate you from everyone, put you in isolation prison to break you down and not let you continue this hunger strike. E uno dei modi che i palestinesi hanno trovato per andare contro questo tipo di detenzione è proprio lo sciopero della fame, ma c'è una procedura molto specifica con cui iniziare. Devi annunciarlo, devi far sapere alla prigione che vuoi iniziare lo sciopero della fame, dopodiché ti verrà dato del cibo in minori dosi, fino a che loro ti prendono e ti isolano dal resto della prigione, anche per sottoporti a uno stress psicologico, perché l'isolamento comporta appunto l'allontanamento da tutti gli altri, quindi magari meno forza percepita. The two brothers, they start the hunger strike. They arrive the 80 days without food. They used to just use the water and salt, because salt is important for stomach to not damage the stomach. So what they used to do before they start the hunger strike, put their t-shirt in water and salt water, and then dry it, and then you will wear it. So when they will put you in an isolation room, you can just suck your t-shirt, so you will take the salt of the t-shirt, because they will not give you, so that your stomach will not totally damage. Questi due fratelli hanno appunto iniziato uno sciopero della fame che è durato 80 giorni, e di solito anche nel loro caso si toglie il cibo, si continua con l'acqua, e una procedura che loro hanno iniziato ad usare era quella di immergere le magliette dentro l'acqua con il sale, perché appunto il sale aiuta a mantenere gli organi interni in equilibrio senza che vengano danneggiati per la mancanza di cibo, e immergevano le magliette nell'acqua con il sale in modo tale che nel momento in cui venivano isolati potevano succhiare in italiano, dalle magliette e avere anche un apporto di sale per non rischiare troppo. When I met personally Mahmoud, one of them who started hunger strike, he had like a nice watch. So this is the first thing that I, before we talk, I tell him, yeah, it's a nice watch that you have. And he tell me, yeah, and it have a long story too. So I tell him, yeah, what the story? And then he told me that when I arrived the 80 days, or a couple of days before 80, he tell me I was totally damaged. I don't want to continue the hunger strike. I was close to fell down. But I was searching for a challenge, something that make me continue until I get my freedom. So when the doctor came, his doctor was really bad with him because he's also barred from the army, this Israeli system. And he was always telling him, you have to stop, you are weak, no. So he told me, I saw his watch and I like it. And I tell him, would you like to make a challenge, me and you? If I gain my freedom and continue, you will give me your watch. If not, probably I will die, or I will finish it in both way. My time is finished. He tell me, for me, it was not just watch, it was like a time, because I was challenging the time, because I know he lost also his seeing in the 80 days. And then the doctor, he says, okay. Quando ha incontrato Mahmoud, uno dei protagonisti di questa storia, Aysar ha notato che aveva un orologio bello, gliel'ha detto, è un bello orologio, e Mahmoud gli ha detto, sì, se vuoi c'è anche una storia dietro questo orologio, e gliel'ha raccontata. Praticamente quando stava arrivando agli 80 giorni di sciopero della fame, il suo corpo era completamente affaticato, per dirla bene, da questo sciopero, e stava perdendo anche la vista e aveva bisogno di un motivo, perché non ce la faceva più, aveva bisogno di un motivo per riuscire a continuare a lottare in quel modo. Il medico della prigione, che quindi un medico dell'esercito israeliano, è andato a visitarlo per vedere le sue condizioni, gli ha detto che non ce l'avrebbe più fatta, che stava portando il suo corpo al limite. E Mahmoud in quel momento ha notato che il medico aveva appunto questo bello orologio e gli ha lanciato una sfida. Allora facciamo così, se io riesco a resistere, tu stai dicendo che io non ce la posso fare, che tra qualche giorno crollo, se io invece riesco a resistere, tu mi dai l'orologio. E per lui non era soltanto un bello oggetto, era poter dimostrare di potercela fare, riuscire a superare i limiti anche del suo corpo per ottenere la sua libertà contro la detenzione amministrativa. Because also he was in a hospital, this hospital inside the prison, so it's not normal hospital. He was also blocked with the bed, so for him he was already in the prison too. So this watch, it was for him his freedom, and it was like at the time that he can do it or not. At the end, when he gained his freedom, they move him outside and says, no, bring me the doctor back. The doctor, he came and tell me, you remember when we made the challenge? He tell me, yeah, he take this watch and he tell him, I wish, if it's really valuable for me, this watch, but I wish if I will have a child, he will be like you. So it was one of the really interesting stories. The doctor said that? Yeah. Praticamente per lui quell'orologio simbolicamente rappresentava la sua libertà, quindi quando inoltre si trovava all'interno di un ospedale dentro alle carceri, quindi una doppia prigionia, era incatenato al letto, non poteva muoversi. Quando ce l'ha fatta e ha ottenuto la sua libertà, è uscito, l'unica cosa che ha voluto è ha chiesto di quel medico. E quando il medico si sono trovati, il medico consegnandogli l'orologio, perché doveva ricordarsi appunto della sfida, dell'accordo che c'era fra loro, ha detto che se mai avesse avuto un figlio l'avrebbe voluto con la sua stessa forza di questo. Non so, magari qualcuna qua anche vuole fare delle domande ad Aisar, approfittando della sua presenza qua. Io sono Riccardo, volevo chiederti da quant'è che non torni in Palestina e quando è che pensi di poter tornare? Sì. Non c'entra col libro, lo so, però... Sì, no, va bene. Sì, non sono andato da 2 anni e mezzo, forse. L'ultima volta quando sono andato, sì, mi hanno fatto tantissime domande su Palestina, dove hai passato questi 2 anni... ho detto ero in Italia, hanno chiesto tantissime domande, tantissimi questo nel in the bridge itself, nel sì, tra Palestina, tra Giordania e quindi da 2 anni e mezzo non sono tornato. Adesso in dicembre sto pensando, sì, di questo dicembre di tornare per sì, 2 settimane, e speriamo sì tutto sarà bene. In mente, parlando della detenzione amministrativa, no? Che noi abbiamo i CPR, che in Italia, non so se tu li conosci, questi centri dove c'è la detenzione amministrativa anche da noi, no? E stavo pensando, perché questi gli israeliani, cioè quando i palestinesi fanno diciamo lo sciopero, poi li liberano. First is administrative detention. It means that you will be in the prison without evidence, just because the Israeli think that maybe you will do something in the future. So there is no evidence, there is no, and it's illegal. But they are doing it. There is some Palestinian already. They spend more than 10 years in the prison under administrative detention. Amministrativa non ha prove, spesso si basa sul fatto che tu vieni ritenuto pericoloso, che potresti in futuro fare delle cose contro lo Stato israeliano, però non ci sono poi delle vere prove portate per metterti in prigione, ma poi è quello che accade. And in the reality it's one of the way how to gain your freedom by yourself without the need of any of others, and it's happened a lot with many Palestinians nowadays. Palestinians they start doing it more because by making strike you are using the international media, you are using a lot of resources, that a lot of pressure will be in Israel, also creating problems inside the prison itself, which other prisoner they could support you with the hunger strike. So the Israeli already, okay, we don't have anything on you, we arrest you just for that, and then They will release you. E lo sciopero della fame è uno degli strumenti più forti che hanno per contrastare la detenzione amministrativa, proprio perché richiama anche un'attenzione mediatica che altrimenti non ci sarebbe, proprio perché non ci sono prove, sono detenuto senza motivo, senza processi, e quindi richiama molto anche l'attenzione internazionale e quindi delle pressioni sullo Stato israeliano, e inoltre causa anche tanti problemi a livello di prigione, perché si crea il supporto tra prigionieri, e quindi è uno dei mezzi più efficaci che loro hanno per contrastare questa. They can keep you also for years administrative detention, because there is money like that. But making hunger strike, because you will refuse the food, you will other Palestinians, they will support you by refusing the food. Also the media now making a lot of pressure on Israeli system, which they try to avoid it, because they try to keep the Israeli image as peaceful, democratic, image. So at the end, if you, they already know that you didn't do anything, so they will release you. But this for administrative detention. People who get judged normally, it's another thing. Questo è specifico per la detenzione amministrativa perché non c'è processo, non ci sono prove, non ci sono giudizi. E il fatto che ci sia tutto questo risalto mediatico a Israele non piace perché loro vogliono mantenere questa facciata di Stato democratico, pacifico, buono, e quindi che loro detengano in prigione delle persone senza motivo, per giunta che sono in condizioni fisiche critiche, non è una buona pubblicità. Però questo è specifico della detenzione amministrativa. Ciao Aizer. Allora, volevo farti una domanda che non so se è facile o difficile, ma vorrei sapere il tuo punto di vista. Nel tuo libro tu racconti storie di persone che hanno diverse età, no? E quindi volevo sapere un po' il tuo punto di vista sul... Tu sei un giovane uomo di una certa generazione. Qual è secondo te l'approccio, se c'è, differente tra l'approccio alla resistenza della tua generazione e di quella più piccola di te e di quella più grande di te? Se c'è un... se si tramanda e se... o comunque se cambia nel tempo. Ok, yeah. Ok, interesting question. I will compare also the same with the first intifada, the second intifada, and maybe in today, so you will understand. The first intifada was more wonderful, let's say, because all Palestinians were equal. The political parties was still at the beginning of forming themselves. So the resistance was more following the popular resistance. Plus, the rule of the woman was more strong than today. Allora, per rispondere a questa domanda, lui parlerà della prima, della seconda intifada e un po' i giorni di oggi. La prima intifada fu un evento un po' più spettacolare perché i partiti in quel momento si trovavano in una situazione più di equilibrio e anche all'inizio delle loro attività, e quindi c'era anche più corrispondenza col popolo, con le necessità del popolo, e il ruolo della donna anche in questo era molto più forte. Yeah, in fact, in my new book I'm writing about exactly this point and the difference. Yeah, because what makes the difference between the first intifada and today, also the role of the woman, because they were almost everything in each details, that the messages that in the middle of the and the first line of the resistance, plus the links between the political parties and the cities, making the schools for the young, transferring the food to the lots of che infatti adesso lui sta scrivendo un altro libro proprio su questo, sul passaggio dalla prima intifada alla seconda intifada, del ruolo che aveva la donna a livello politico. Poi ammetto che mi sono un pochettino persa perché mi rimango un po'. Plus to that, there were no limit for resistance. There is no like for ceiling for resistance or till here. It was open. You will start by the demonstration and you don't know where you will arrive because you are already facing occupation that he will use all what he have against you. Questo nella prima intifada. Durante la prima intifada, diciamo che non c'era, era come se non ci fosse un limite nella resistenza e in ciò che tu mettevi come strumento contro occupazione, perché la stavi già contrastando e quindi facevi di tutto per resistere e nessuno che avesse even books, for example, during the first intifada, if you have normal book in your house, you used to get arrested for 6 months. So books, newspaper, all this form of education, it was forbidden. One of the nice story that my grandma used to tell me, they used to bury the books under the land. And when Israeli, they will not be here, they used to take one book and read it in public in a way to educate each other. So everything was valuable. Everything was in careful way, doing it in careful way. Che durante la prima intifada addirittura era proibito avere dei libri. e se ti trovavano con dei libri venivi messo in prigione per 6 mesi. Quindi una storia che sua nonna gli raccontava era che in quel periodo di solito li nascondevano sottoterra, e poi nel momento in cui erano sicuri che non c'era l'esercito israeliano li tiravano fuori, ma li leggevano in pubblico, anche con l'ottica di educarsi a vicenda e avere una coscienza politica, formarsi una coscienza politica. But in general, the form, or it says the name of the resistance during that time, the first intifada, was, we can call it more popular resistance, demonstration, flyers, and this type. After that, people, they start losing the hope of the political party, losing the hope of finding solution. And normally when the person lose his trust of something, then there is nothing more to believe on. People, they start believing in anything else. And they start became also more religion people. Okay. E durante la prima intifada dice che si può chiamarla una resistenza popolare, proprio perché c'erano continue manifestazioni, si scrivevano testi, volantini, e dopo è cambiato qualcosa, ha fatto sì che le persone a un certo punto perdessero la speranza e la fiducia nei partiti, nelle istituzioni, e che the political party became weaker, people they start believing, I mean people they start became more religion, leaving all this thing for the God, one day he will be finding solution for that. Che gli stessi partiti si sono in un certo senso ammalati, non erano più all'altezza di sostenere le richieste del popolo, e si è riposta la fiducia anche nella religione. Le persone hanno incominciato a sperare che a un certo punto arrivasse Dio a cambiare la situazione. Saying that because before Palestinian was more communist, let's say, there is a high percent of people also they were communist. After that, the level of religion or Muslim people became more, the political party became less, there were many changes that happened. This doesn't mean it's bad or wrong, but it was like a moment the situation was changed. Second intifada. Perché prima, fino alla prima intifada, Palestina aveva, si può dire che fosse molto comunista, molto politicizzata, i partiti avevano un grande ruolo. Dopo c'è stato appunto questo, una sorta di impoverimento politico, la percentuale politica si è decisamente abbassata e invece si è alzata quella più religiosa. Second intifada take the form of the gun resistance. The rule of the men was more than the rule of the woman in this resistance, and it's end with what's happened in the Nativity Church, when the whole fighter they enter inside and then they have distributed in the whole world. E la seconda intifada invece è quella più legata, anche conosciuta come quella delle pistole. Il ruolo dell'uomo all'interno di questo tipo di resistenza, di lotta, è cresciuto tantissimo, e quello delle donne invece si è abbassato, e è abbastanza famoso come è andata a finire, è abbastanza famosa il momento della Chiesa della Natività, dove era rimasto un gruppo di persone che resistevano armate di fucile, e che poi una volta prese e catturate sono state dislocate in giro per il mondo. Nowadays we can say the youth are trying to bring back, or let's say they learn very well what's happened the first and the second intifada, and they try to form their own way. I mean, nowadays, if I will look about my refugee camp, the small refugee camp, I'm seeing an artist, musician, writers, sport people. So I mean, also the resistance take different way, because they start believing that also each way we can use each way to talk about what's going on. Che adesso è fondamentale, e lo sanno bene, che cosa è successo nel passato, quindi che cosa è successo durante la prima intifada, durante la seconda, ma adesso è cambiato ancora una volta, hanno creato un loro proprio modalità di resistere, che passa anche attraverso tutta una serie di attività che non sono prettamente legate alla lotta, come l'arte, la musica, la scrittura, lo sport, comunque ben consci di quello che è stato il passato. Plus also the rules of girls, the women start like also going back again as it was before. Sure, it will be like difficult because there is a moment that the brain and maybe the our way of resistance is formed in some way. Now people or youngly says they are trying to liberate themselves from all this form that we get and we have it from our parent and our, and we try to find our way in our resistance. This was really for me interesting because I'm seeing something it was not before. E che adesso anche il ruolo della donna sta tornando molto più importante, rilevante rispetto magari a questo periodo della seconda intifada, proprio perché i più giovani hanno deciso di intraprendere la loro modalità di resistenza, anche di staccarsi un po' da quella che è stata la mentalità dei genitori o dei nonni, e quindi trovare la propria modalità. Like what's happening in Sheikh Jarrah in Jerusalem. One girl and her brother, they make disaster in the world. The whole world hear about this, what's happening in Jerusalem, what's happening in this neighborhood that Israel they try to damage it. And this really interesting, but sure the cost and the tax will be also high. I mean that that's why Israeli they are arresting and focusing to arrest the young generation and or this generation. E come lui, come esempio, fa quello molto recente di Sheikh Jarrah, che è un quartiere di Gerusalemme che ultimamente ha fatto moltissimo parlare di sé grazie alla lotta di due fratelli, un ragazzo e una ragazza, che hanno messo in piedi un vero e proprio gran rumore per combattere per il proprio quartiere, e questo spiega anche molto bene qual è il tipo di approccio che lo Stato israeliano, l'esercito israeliano usano nei confronti delle nuove generazioni. Ciao Aysar, le mie due domande sono molto classiche. La prima è: come hai fatto tu a scegliere i racconti? Perché anche noi quando siamo stati in Palestina abbiamo sentito tantissimi racconti di storie molto faticose, dolorose. Quindi come li hai scelti? E poi perché Foglie di gesso? Perché, cioè, se ricordo bene, il titolo è un titolo che ha tutta una spiegazione, un significato. How I choose it, I don't know. I just wrote many stories. Again, I decide when I write this book, the aim of this, that anyone who would like to read it, he have to feel bad after that. So I try to choose, not based on that, but I try to choose the stories that follow my aim on this book. Maybe other books is different. I'm feeling pain, feeling bad, to feel as the people who live this story. Ok. Ha scelto queste storie rispetto ad altre perché per lui rappresentavano molto bene, cioè potevano far provare al lettore dei sentimenti, quelli che provano i palestinesi che vivono in un campo profughi, quindi delle emozioni non sempre positive, non belle. Some of these stories, I share some of these stories, I live it some I share it with a friend. In fact, I used to wake up in the morning and the first one who will pass in front of me, I will write a story about him. Because as I said, 80% of the population, they get arrested. Uno dei modi che ha avuto per sceglierle era proprio alzarsi alla mattina e la prima persona che incontrava nel campo farsi raccontare la sua storia, perché appunto la percentuale delle persone che hanno vissuto questo tipo di esperienza è molto alta, intorno all'80%. Yeah. Maybe the only difference that for me I will be searching for something among all this person that will be in front of me, something that will be like easier to say anything, like for example the story of the door, like the story of this challenge. For me it will be more easier for people to understand the story. More stories, as I said, more human, more social stories. E magari quando appunto faceva questa cosa cercava dei particolari nelle storie che gli venivano raccontate dalle persone che fossero anche legate ad un aspetto più umano o più particolare, proprio per dare anche un altro tipo di visione alla storia, però che avessero poi un legame, un riallacciamento umano. Because my father told me to be a good writer you need to be good fisherman. I mean waiting the real and good story to that will be able to tell and raccont the real thing. Perché suo padre gli ha detto per essere un buono scrittore devi essere un buon pescatore, devi riuscire a trovare delle buone storie, riuscire a pescarle bene, quindi non tutte, e poi poterle raccontare, deve esserci qualcosa di particolare. This is me, in my area there is really great also writers, their book arrive really in the world. For me, still in the first steps. Questo è però legato alla sua esperienza, come ha fatto lui. E nella sua area ci sono tantissimi scrittori che sono anche arrivati, come si dice, molto più in alto. E però appunto è all'inizio. Thank you. No, volevo chiederti cosa stai scrivendo, cioè se ci puoi dire cosa stai scrivendo, quando possiamo insomma leggerlo. Okay. E grazie. Ho già due, already I have two books, two novels, it's published in Arabic. Now I already finished, 1 month ago I finished another novel that talk about Palestinian boy and Italian Jewish girl. So I'm talking about two story in two words, and at the end how it will, the destiny will gather them in some moment. Ha già scritto altri due racconti, però sono ancora in arabo e non tradotti. E adesso sta scrivendo il racconto di una storia che riguarda un ragazzo palestinese e una ragazza italiana ebrea, e la loro storia si colloca in mezzo alle due guerre e come riescono a allacciare un rapporto, quello che gli capita all'interno di quel contesto molto particolare. It was interesting because during all this the two stories there is a lot of similarity and a lot of different, but it was really interesting also for me because part of the story is real and part is the job of the writer. E questo lavoro per lui è molto interessante e particolare perché una parte delle storie sono reali, quindi lui se le sta scoprendo, sono realmente successe, altre è il gioco dello scrittore. Però è interessante vedere come alcune cose si assomigliano, si avvicinano. So already I finished this one and I and now I'm in the process of translating it. And I already start with another novel about Syrian. I will talk about a Syrian. This book will be about Syrian woman. So I'm talking about the Palestinian who live in Syria. questo l'ha finito e ne sta scrivendo un altro su una ragazza siriana, però palestinese di origine, quindi quello che riguarda i palestinesi che vivono fuori dalla Palestina. Speriamo presto di poterli leggere. Va bene, io ringrazio tantissimo Aysar, ci tenevamo tanto a fare questa presentazione in presenza e consiglio a tutti di leggere il libro e ringrazio anche chi ci sta seguendo dalla radio e chi ha sfidato il freddo ed è venuto qua da noi. Per i presenti, volendo, ci sono anche le copie del libro Foglie di gelso da poter comprare e per tutti gli altri andate in libreria a Prospero Editore. Grazie Aysar. Grazie mille a voi.